Déjà Vu su CRM Happy Radio. Pop rock internazionale dei Placebo qui a CRM Happy Radio all'interno di Déjà Vu. Ancora buongiorno. I Placebo, che hanno profondamente segnato l'evoluzione del rock alternativo nella seconda metà degli anni 90, quando hanno spopolato grazie al singolo Without You oppure I'm Nothing e Black Market Music. Poi si sono sempre distinti dalla massa per la voce squillante di Molko, per il loro stile definito quasi gotico e per i testi trattanti molto spesso temi ad adolescenziali. Una manciata di caratteristiche che all'ascolto fa immediatamente pensare: questo pezzo è dei Placebo. Inconfondibile sound dunque per loro, particolare che alla lunga si rivela un'arma a doppio taglio, però, perché poi potrebbe anche ripetersi, come succede in questo nuovo album per i Placebo, che come ingredienti scelgono sempre gli stessi. I principali elementi del loro settimo disco Loud Like Love, che poi sarebbe anche il titolo del singolo che abbiamo appena finito di sentire, sono essenzialmente gli stessi dei lavori precedenti. È impossibile non fare paragoni con questi ultimi, l'atmosfera è davvero troppo simile agli altri album e agli altri singoli dei Placebo, quindi potrebbero a lungo andare. Qualcuno, qualche critico di quelli pesanti potrebbe storcere il naso in questo senso, vabbè, ma comunque così un po' per tutti gli artisti, perché poi alla fine si riconoscono proprio perché fanno un genere sempre quasi uguale a se stesso. Se dobbiamo guardare al panorama italiano, se pensiamo a Ligabue, ci sembra certe volte che le sue canzoni siano molto simili fra loro, no? Poi è anche un fatto molto normale, direi. E va bene, invece Giorgia c'ha sempre l'arma in più, e questa volta insieme ad Alicia Keys. Ti guardo, vedo solo il buono che rimane quando sai che tutto è perso, tutto è rotto ormai. Considerando noi soli in queste circostanze nuove, lasciamoci così, perché un legame sempre resterà. Pregherò. Yeah. You never believe the reason we are here, to make it better, change what we can, see the world the best that we know how. But now I'm left alone, left without a word. I'm so breathless, now I'm weightless. Never have I been so firm before. Mamma mia, che accoppiata vincente quella fra Giorgia e Alicia Keys. I will pray, ovvero pregherò. Splendidamente donna a 42 anni, Giorgia ha scoperto la sua femminilità e sorride con malizioso appeal. I suoi occhi comunicano sempre molta sensualità, è anche diventata molto più bella negli ultimi anni e anche più brava, e naturalmente si affianca a grandi nomi della musica internazionale. E fra poco sarà il festival

Come canta Pharrell Williams, happy, siate felici in questo bellissimo giorno di giovedì 19 dicembre, una bellissima giornata di sole e la musica che ci piace di più è la musica nuova, quella di Pharrell Williams, la canzone si chiama Happy ed è una canzone che sicuramente esprime proprio felicità, come canta lo stesso singolo praticamente, che parla di cose che rendono felice ed è fra l'altro anche la colonna sonora di Cattivissimo Me 2, curata proprio da lui. E il 2013 si conclude per lui alla grande, perché firma un contratto discografico con la Columbia Records e quindi ancora sulla cresta dell'onda, sulla cresta del grande successo, Pharrell Williams, che la scorsa estate, grazie a grandi partecipazioni musicali insieme ad altri artisti di grande spessore, insomma, questo ha fatto sì che la sua fama si rinnovasse sempre di più, è stato molto spesso al centro dell'attenzione in questo senso e adesso con questa canzone lo è ancora di più, senza dubbio. Pharrell Williams, che abbiamo sentito dunque anche questa mattina qui su CRM Happy Radio all'interno di Deja Vu. Volevo ricordarvi che questa sera in diretta su CRM Happy Radio, stasera ma anche domani sera, ci sarà il consiglio comunale in diretta proprio in questa radio dalle 19:30 in poi, non mancate. Nel frattempo arriva la musica italiana di Eros Ramazzotti. Una lacrima sospesa e non voleva scendere. Un sorriso a denti stretti, questo prima di te, prima di te. Era neve all'equatore, indeciso su di me. Avevo tutto ed ero niente, io prima di te, prima di te. Ero una bandiera ferma che aspettava il vento. Come un sorso d'acqua pura che scorre in gola, tu mi stupisci ancora. In tutto quel che fai mi meravigli ancora. Quando non eri mia come la prima ora, tu non lo sai ma non ci credevo più. Prima di te ero rabbia e perdono, la paura che si ha di non essere più capaci di amare. Prima di te, prima di te. C'era un bacio lì a mezz'aria che si era perso, come il primo giorno a scuola. Stupisce ancora in tutto quel che fai, mi meraviglia ancora. Quando non eri mia come la prima ora, tu non lo sai ma non ci credevo più. Io prima di te, prima di te, prima di te, prima di te. C'era un bacio lì a mezz'aria che tu hai raccolto. tu mi stupisci ancora. In tutto quel che fai mi meravigli ancora. Quando non eri mia come la prima ora, tu non lo sai, ma non ci credevo più. Io prima di te. Era Stramazzotti, Io prima di te, qui su CRM Happy Radio. Questa mattina non ho ancora ricordato i numerini per interagire con me. Mandatemi gli sms al 3355637251, saranno graditissimi. E poi non dimenticate che c'è il numero fisso, lo 0921923292. Siete sempre all'interno di Deja Vu, anche in streaming su internet al nostro sito www.crmhappyradio.it. E poi naturalmente, naturally, questa parola mi piace un sacco, ultimamente la dico spesso, non so se ci avete fatto caso. Io sì. E vabbè, pazienza, scatena automatico. Beh, ci toglieremo anche questo vizio qua. Nel frattempo volevo ricordarvi una cosa importantissima che riguarda l'Associazione Italiana Ricerca Contro il Cancro, in particolare quella che ha sede qua a Cefalù, dunque l'Associazione Italiana Ricerca Contro il Cancro con sede a Cefalù, per la ricerca appunto dei fondi. Venerdì 27 dicembre organizza presso il Cinema Astro la proiezione del film Indovina chi viene a Natale, e naturalmente parte dell'incasso sarà donato in beneficenza proprio dall'Associazione Italiana. Questa è l'iniziativa della medesima, e per cui non dimenticate, venerdì 27 dicembre potete vedere questo film Indovina chi viene a Natale e dare una mano in questo senso. Intanto noi andiamo avanti con il nostro appuntamento, e c'è la musica degli Aerosmith, un grande capolavoro questo, firmato appunto Aerosmith e cantato con la voce strepitosa di Steve Tyler. Naturalmente la canzone che ha fatto da colonna sonora al film Armageddon. Come dimenticare questo film, e come dimenticare questa canzone qua che sentiamo proprio questa mattina all'interno di Deja Vu. Sentiamola, ci piace tanto, chiudiamo gli occhi se ci riusciamo, se possiamo, e sogniamo, perché no, qualche momento. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. I don't want. non ci stanchiamo mai di certa musica e di certe colonne sonore che rimangono nel tempo, che lasciano il segno, come questo degli Aerosmith, I Don't Want to Miss I Think. E volevo ricordarvi che questo pomeriggio, questa sera, a partire dalle 17.30 al Teatro Comunale di Cefalù, i Vanni 36 presentano il concerto di Natale. Sicuramente sarà un momento di condivisione speciale, tutto natalizio, da non perdere assolutamente, questa sera alle 17.30 al Teatro Comunale di Cefalù con i Via Vanni, con i Vanni 36, ok? Ok, intanto andiamo avanti, c'è la musica di Malika Yane? Sì. No. Ogni tanto mi fanno gli scherzi qui in regia. Piace questa cosa. Ridi. Connor Maynard, are you crazy? Tra poco arriva anche Malika Yane, tranquilli. Crazy, must be stupid if you think that we can start again. Are you joking? Must be joking. You ain't laughing, I ain't smoking. Must be crazy if you think that we can start again. There ain't no need to cry no more when you break my heart in two. 24. I'll pick up the pieces you left. If you think I'm coming back, don't hold your breath. I ain't your mister, no. Cause I'm breaking up with you. Should've hooked up with your sister. Go now, here's my middle finger. Cause I'm hurting, baby. Hurting, baby. Look what you did. Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Are you joking? Must be joking. You ain't laughing, I ain't smoking. Must be crazy if you think that we can start again. Let's go see what kind of chick knocks me out. Now I know that she wants me back. Nothing sounds more better than hit the road, Jack. Don't call me mister. Girl, I've broken up with you. Love me now, my name is bigger. Girl, I'm giving you the finger. Cause I'm hurting, baby. Hurting, baby. Look what you did. Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Are you joking? Must be joking. You ain't laughing, I ain't smoking. Must be crazy if you think that we can start again. Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Are you joking? Must be joking. I ain't smoking. Must be crazy if you think that we can start again. Must be stupid if you think that we can start again. Are you joking? Must be joking. You ain't laughing, I ain't smoking. Must be crazy if you think that we can start again. Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Are you joking? Must be joking. I ain't smoking. Must be crazy if you think that we can start again. Deja vu su CRM Happy Radio. Something's rattled Siete sempre su CRM Happy Radio all'interno di Deja Vu, fra poco daremo spazio all'informazione. Nel frattempo volevo ricordarvi ancora una volta alcuni appuntamenti di questa sera. A partire dalle 17.30 al Teatro Comunale di Cefalù, i Vanni 36 presentano il concerto di Natale, un'atmosfera natalizia che sicuramente farà piacere vivere e condividere insieme appunto ai Vanni 36, che presenteranno dei singoli prettamente natalizi al Teatro Comunale di Cefalù a partire dalle 17.30. E poi stasera, domani sera anche in diretta su CRM Happy Radio, non dimenticate che c'è il consiglio comunale e appunto saremo in diretta dalle 19.30 in poi. Nel frattempo, come dicevamo prima, pausa per l'informazione e poi ritorniamo ancora un'ora insieme, sempre con Mary Catalano a microfoni. Deja Vu su CRM Happy Radio. Non so più chi sei, non somiglia a chi, a chissà difendermi da me. Non spieghi perché, ma mi lasci indietro. Ti lascerò, ma soltanto per un po'. Tra i dubbi che sanno essere più chi sei, tu fingono col mondo di esser noi. Chi fa male a chi neanche me lo chiedo, mi aggrapperò. È da un po' di settimane che sentiamo questo singolo di Malika Ayane, devo dire che ci piace tanto, è una cosa molto segnalata ai nostri numerini che torno subito a ricordare: 335-5637-251 e poi lo 0991-92-3292. Ancora insieme sino a mezzogiorno, insieme alla voce di Mary Catalano che vi accompagnerà con la musica che più vi piace, sono sicura di questo. E nel frattempo volevo ricordarvi ancora una volta che l'Associazione Italiana Ricerca contro il Cancro, e in questo caso l'associazione locale di Cefalù per la ricerca contro il cancro, per cercare i fondi per far sì che vi siano abbastanza fondi, venerdì 27 dicembre organizza presso il Cinema Astro la proiezione del film Indovina che viene a Natale. Parte dell'incasso sarà devoluto in beneficenza proprio dall'Associazione Italiana per la ricerca contro il cancro. Quindi venerdì 27 dicembre tutti all'Astro per la proiezione di questo film Indovina chi viene a Natale. Nel frattempo arriva la voce di Beyoncé, anche lei una super diva che non poteva mancare questa mattina all'interno del nostro appuntamento. Grown Woman, il singolo che sentiamo. di persone silenziose. Ce ne sono e come. Sono timide presenze. Nascoste tra la gente. Ma il silenzio fa rumore. Gli occhi hanno un amplificatore. Quegli occhi ormai da sempre abituati ad ascoltare persone che non sanno parlare, che mettono in ordine i pensieri. Persone piene di paura che qualcuno possa sapere i loro piccoli e grandi contraddittori pensieri. L'improvviso scappi via. Senza salutare, i tuoi occhi scendono le scale. Non so cosa vanno a fare. Se commuoversi a sognare. Arrabbiarsi o a meditare. Nell'anima si sa c'è sempre molto da fare. Persone che non sanno parlare, che mettono in ordine i pensieri. Persone piene di paura che qualcuno possa giocare con loro piccoli e grandi contraddittori pensieri. Senza salutare. Vorrei essere un angelo per poterti accompagnare. La. Canta Tiziano Ferro insieme a Luca Carboni per questo singolo di vecchia data, proprio dello stesso Luca Carboni che ha voluto per il nuovo album la partecipazione importante di Tiziano Ferro per questo singolo Persone Silenziose, sempre all'interno di Déjà Vu insieme a Mary Catalano. E naturalmente ci potete seguire su internet al www.crmepiradio.it, ci seguite in streaming e poi non dimenticate la pagina Facebook, potete scriverci anche lì, interagire con me in qualsiasi modo. E a proposito di internet, quando vi sembra che siamo tutti ormai presi dal mondo della tecnologia e appunto da internet, dal web, dai social network, invece poi alla fine si scopre che più di un italiano su tre, ovvero il 34%, non ha mai usato internet. Il risultato peggiore tra i 28 paesi europei dopo quelli registrati in Romania, Bulgaria e in Grecia. Questa è la fotografia scattata dai dati 2013 raccolti e diffusi da Eurostat, secondo la quale in media l'Europa è praticamente tra quelle peggiori per quanto riguarda l'utilizzo di internet, che praticamente non è stato mai usato da circa il 21% delle persone. L'Italia si colloca nella parte bassa della classifica Eurostat anche per la quota di suoi cittadini che usano internet ogni giorno o quasi, e qui la percentuale è del 54% contro una media di, europea del 62%, che ci vede a pari merito con Spagna e Repubblica Ceca, ma davanti solo a Croazia, Cipro, Lituania, Portogallo e altri paesi ancora. Insomma, simile la situazione per quanto riguarda l'accesso delle famiglie a internet e alla banda larga, con percentuali pari rispettivamente al 69% e al 68% rispetto alle medie europee, e del 79% e del 76%. Insomma, il digital divide con i più importanti paesi europei emerge anche quando si prendono in considerazione i numeri relativi all'utilizzo di internet da parte dei singoli cittadini per interloquire con le istituzioni pubbliche. Infatti solo il 21% degli italiani lo fa, contro una media del 41%, e poi l'Italia ben figura invece per quanto riguarda l'uso della rete quando si tratta di iscrizioni a scuole e università. Almeno qua ci salviamo, insomma. E va bene, intanto andiamo avanti con il nostro appuntamento. Arriva Vasco Rossi, un grande successo per lui. È questo dalle prime note, non ha bisogno di presentazioni. Un senso a questa vita non ce lo dà neanche lui in questa canzone, che è stupenda. Voglio trovare un senso a questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa voglia, anche se questa voglia un senso non ce l'ha. Situazione, anche se questa situazione un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa condizione, anche se questa condizione un senso non ce l'ha. Senso a tante cose, anche se tante cose un senso non ce l'ha. Bye.

Beh, in questo periodo natalizio non potevano mancare gli UM con Last Christmas, un singolo che in questa occasione ascoltiamo spesso, visto che è prettamente natalizio. E proprio questo singolo degli UM è stato ripreso da Mario Biondi per quanto riguarda il suo progetto natalizio che si chiama Mario Christmas, e questo nuovo progetto del crooner soul che è già in vetta alle classifiche con 8 brani classici, 2 inediti e 1 in duetto con gli Heart, Wind and Fire. E tra le canzoni, oltre a Last Christmas degli UM, il tradizionale canto americano che tra l'altro poc'anzi abbiamo sentito, ovvero Larry Snow, e Good Rest Ye Merry Gentlemen, insomma per un Natale all'insegna del soul e dell'R&B, scegliete questo album, che ne so, da regalare a qualcuno che amate tanto e con il quale volete condividere le musiche natalizie che negli ultimi anni sono ritornate di moda. Finalmente la gente ha capito che in questo periodo natalizio serve anche creare l'atmosfera, no? E con chi meglio della musica può riuscire nell'intento? E allora si creano tanti album, perché tra l'altro oltre al progetto di Mario Biondi che parla di canzoni natalizie ce ne sono altri, fra questi c'è anche l'album di Mina che si chiama Christmas Songbook, composto da 12 celebri brani della tradizione natalizia. La cantante ha puntato sull'eleganza e la raffinatezza, e fra i brani spicca il duetto con Fiorello nella canzone Baby It's Cold Outside. Le altre canzoni sono le celebri Silent Night, Larry Snow, anche questo presente in quest'altro album, Have Yourself a Merry Little Christmas e White Christmas, tutte entrate nella storia della musica di Natale. Bene, andiamo avanti con il nostro appuntamento. Invece adesso arrivano i Subsonica, un'altra bella cosetta per voi di qualche anno fa, si chiama Incantevole, e mancano 20 minuti a mezzogiorno e quindi è la fine di questo appuntamento con Deja Vu insieme a Mary Catalano con voi. Farai, io sarò asfalto, impronta sui tuoi. La mattinata di oggi, giovedì 19 dicembre, spero anche per voi prosegue tranquilla e sempre c'è il sole in alto e questo fa sì che sia anche meglio, no? E non dimenticare che questa sera alle 17.30 circa al Teatro Comunale di Cefalù ci sarà un concerto di Natale da non perdere assolutamente, curato e musicato dai Vanni 36, e non perdetevelo dunque questo spettacolo, musiche natalizie, appunto concerto di Natale per i Vanni 36 al Teatro Comunale di Cefalù a partire dalle 17.30, che c'entrano le 11, e va bene. E poi non dimenticate che questa sera alle 19.30 ci sarà in diretta su CRM Piredio il consiglio comunale, ok? Non perdetevelo. Intanto arriva Justin Timberlake con T-K-O, così si pronuncia. That's where it's difficult. Girl, I can see in your eyes that there's something inside that made you evil. Where did you go? 'Cause it just ain't fair. Over here thinking about this shit you say. Don't know why it gets to me. It cuts right on my eye. Yeah, it hurt, won't lie. Still can't see it. Think I saw you with another guy. Yeah, right, knocked down. Then I got over you. I'm supposed to do. Don't understand it. Tell me how could you be so low? Been swinging after the bell and after all of the whistle blows. Trying to go below the belt, through my chest, perfect into the dome. Damn it, babe. This ain't the girl I used to know. No, not anymore. TKO. TKO. Baby, now I really know what we're fighting for. This rematch sex is amazing, but nobody wins if somebody's heart is swole. 'Cause when I see you move like you got something inside that made you feel cold. Where did you go? It just ain't fair. Over here thinking about the shit you do. Don't know what I got to lose. It's like my eye, yeah, it hurt, won't lie. Still can't see it. Think I saw you with another guy. Yeah, right, knocked down. Then I got over you. Can't find no more, you knock me out. What am I supposed to do? Don't understand it. Tell me, how could you be so low? Justin Timberlake a CRM Happy Radio. E intanto un fuori programma romantico per lui durante il concerto suo. Il cantante ha infatti interrotto il suo show a Louisville in Kentucky per dare la possibilità a un fan, pensate, di fare la proposta di matrimonio alla compagna. Timberlake ha fatto salire sul palco la coppia e il futuro sposo si è inginocchiato infilandole poi l'anello al dito tra le ovazioni del pubblico. Naturalmente a pochi metri da loro Justin Timberlake, cerimoniere speciale del lieto evento. Una cosa romanticissima che ha voluto fare Justin proprio durante il suo concerto per Joshua Clemon e Kim Martin, che erano andati insieme al concerto di Timberlake ed erano proprio sotto il palco ad ascoltare la romantica That Girl, quando Timberlake ha fermato il concerto e li ha portati tutti e due al centro del palco. Josh mi ha chiamato prima, ha detto al microfono il cantante, E poi praticamente gli ha chiesto di fare questa cosa qua, e a quel punto Joshua si è inginocchiato davanti alla sua bella, insomma, come vuole la tradizione, e al sì della ragazza tutto lo stadio è esploso in un grido di gioia. Potete immaginare che cosa è successo dunque. E va bene, intanto andiamo avanti con il nostro appuntamento, la musica italiana di Elisa questa volta con Ecco Che. Ancora buongiorno a voi ritardatari che vi siete messi in sintonia soltanto in questo momento con Déjà Vu, l'appuntamento del martedì e del giovedì, e per questo giovedì manca poco e stiamo per terminare, però c'è ancora qualcosa da ascoltare, intanto gustiamoci questo. Distratto, passeggi dentro al mondo, tu non vivi fino in fondo e speri che il tempo passi accanto rubando da te un sogno. Sei tu, e ora tu sei dentro me. Déjà Vu su CRM Happy Radio. Deixa a dor entre mar e o anzol. arrivati alla fine anche per questo appuntamento di oggi con Deja Vu, sempre Mary Catalana ai microfoni. Tra poco invece un nuovo appuntamento con Carta e Penne con Filippo Glorioso. E prima di chiudere del tutto volevo ricordarvi ancora una volta che l'Associazione Italiana Ricerca contro il Cancro, l'Associazione Italiana Locale di Cefalù, per la ricerca appunto contro il cancro, cerca fondi e in questo modo ha organizzato a Cefalù per venerdì 27 dicembre presso il Cinema Astro la proiezione del film Indovina chi viene a Natale, e naturalmente parte dell'incasso sarà devoluto in beneficenza dall'Associazione Italiana, e che ha preso proprio questa iniziativa. E allora l'appuntamento venerdì 27 dicembre al Cinema Astro di Cefalù per questa la proiezione di questo film Indovina chi viene a Natale. Un altro appuntamento da non perdere questa sera alle 19:30 su CRM Piredio, in diretta il Consiglio Comunale di Cefalù, sia questa sera e sia domani sera. E poi se volete deliziarvi con la musica natalizia, alle 17:30 al Teatro Comunale di Cefalù i Vanni 36 presentano il concerto di Natale, da non perdere assolutamente. A questo punto io vi saluto, ci sentiamo alla prossima, prima di Natale probabilmente ci sentiamo, e se non dovesse succedere, naturalmente un augurio da parte mia grandissimo a tutti voi che ci seguite in qualsiasi momento e dovunque voi siete, grazie anche a internet che, come sapete, vi offre la possibilità di seguirci in streaming al nostro sito www.crmpiredio.it. Vi saluto, vi auguro un buon proseguimento con la giornata splendida odierna appunto e buon ascolto con la musica. Ciao ciao ciao.